Vai sul serio. Lo hai detto, hermano. Non si scherza con Jesus. Fuoco alle polveri. Go Halle Paul Berry. Radio Bomba. Buonasera e bentornati su Radio Wombat, siete state ascoltando la 55esima puntata di Fuoco alle Polveri. Benvenuto Sassoli. Qui dai microfoni. Benvenuti. Ho il piacere di annunciarvi alla mia destra Lapo, qui di fronte là, a me Grippo tutti, e poi ciao, infine Mario. Ciao amici, ciao. Ciao. Bentornati. Ci siamo congelati, sì, stiamo veramente bubbolando. Alle bucce. Cerchiamo di scaldarci un po' di musica. Questa puntata cosa prevede? Abbiamo Che puntata è? La puntata numero 55. Come? La puntata in cui mancò Tuco. La puntata in cui mancò Tuco, che ha letto con la febbre. Che salutiamo. Ve l'ha ricordata agli annali. Insieme a tutti gli altri. Un grande saluto a Tuco. E grandi progetti, grandi partecipazioni. Abbiamo una scaletta bella piena, ma soprattutto con delle novità impensabili rispetto ai mezzi tecnici che vi abbiamo fatto credere di avere. In realtà siamo potentissimi. Abbiamo una rivoluzione in corso, prossimissima direi. Nei prossimi giorni, tra l'altro, sì, abbiamo messo le lampadine. Sì, abbiamo messo le lampadine in postazione. Sì, abbiamo messo le lampadine e una lavagnetta. Stiamo a 2000, ragazzi, leggiamo. Ma non solo queste le migliori di cui noi parliamo. No, perché ci sarà il lancio di Radio Wombat, l'evento una due giorni fra Emerson e Polveriera, di cui parleremo più tardi. Ma abbiamo altre notizie da altre radio amiche. Assolutamente sì, prevediamo un collegamento con un compagno di Radio Onda Rossa che ci esporrà alcune loro questioni. E poi beghe, per poi beghe. Proseguire, sì, beghe, però beghe, magari sono in via di risoluzione, chissà. Poi parleremo di Formula 1, parleremo di tanta buona musica e di fatti avvenuti in città e non. Tutto questo intanto dopo un pezzo. Il primo Wombat. Pezzo. Wombat. Dai. Zip right up. Everyone's a winner, bargains galore. That's right, you two can be the proud owner. The quality goes in before that name goes on. One tenth of a dollar. We got service after sale. How about perfume? We got perfume. How about an engagement ring? Some for the little lady, some for the little lady, some for the little lady. $3-$4. We got a year-end clearance. We got our white sale and a smoke-damaged furniture. You can drive it away today. Act now. And receive is our gift to you. They come in all colors, one size fits all. No muss, no fuss, no spills. You tired of kitchen drudgery? Everything must go. Going out of business. Sale. 50% off original retail price. Skip the middleman. Don't settle for less. How do we do it? Volume. Turn up the volume. You've heard it advertised. Don't hesitate. Don't be caught with your drawers down. You can step right up. That's right. If a lazy chops, dice and slice, never stops. Lasts a lifetime. Mows your lawn. And it picks up the kids from school. It gets rid of unwanted facial hair. It gets rid of embarrassing age spots. It delivers a pizza. And it lengthens. And it strengthens. And it finds that slipper that's been at large under the chaise lounge for several weeks. And it plays a mean rhythm master. It makes excuses for unwanted lipstick on your collar. And it's only a dollar. Step right up. Forges your signature, if not completely satisfied, mail back unused portion of product for complete refund of price of purchase. Deprived of. Please allow 30 days for delivery. Don't be fooled by cheap imitations. You can live in it, laughing it, loving it, swimming it, sleeping it, living it, swimming it, laughing it, loving it. Remove embarrassing stains from contour sheets. That's right. And it entertains visiting relatives. It turns a sandwich into a banquet. Tired of being the life of the party. Change your shorts, change your life. Change your life. Change into a 9-year-old Hindu boy. Get rid of your wife. And it walks your dog. And it doubles on sacks. Doubles on sacks. You can jump back, Jack. See you later, alligator. See you later, alligator. And it steals your car. It gets rid of your gambling debts. It quits smoking. It's a friend. It's a companion. It's the only product you will ever need. Follow these easy assembly instructions. It never needs ironing. Well, it takes weights off hips, bust, thighs, chin, midriff, gives you dandruff. And it finds you a job. It is a job. And it strips the phone company free, takes in for private exchange. And it gives you denture breath. And you know it's a friend. And it's a companion. And it gets rid of your traveler's checks. It's new, it's improved, it's old-fashioned. Well, it takes care of business. Never needs binding, never needs binding, never needs binding. Gets rid of blackheads, heartbreakers, psoriasis. Christ, you don't know the meaning of heartbreak, buddy. Come on, come on. Come on, come on. Cause it's effective, it's defective. It creates household odors, it disinfects, it sanitizes for your protection. Gives you an erection, it wins the election. Why put up with painful coins any longer? It's a redeemable coupon, no obligation, no salesman will visit your home. We got a jackpot, jackpot, jackpot. Prizes, prizes, prizes, all were guaranteed. How do we do it? How do we do it? How do we do it? How do we do it? We need your business. We're going out of business. We'll give you the business. Get on the business end of all. Going out of business sale. Receive all. Free brochure. Free brochure. Read the easy to follow assembly instructions. Batteries not included. Yeah. Send it on midnight tomorrow. Terms available. Step right up. Step right up. Zip rider. You got it, buddy. A large print giveth and a small print taketh away. Zip rider. You can zip rider. You can zip rider. Come on, zip rider. Get away from me, can you work? Zip rider. Eccoci tornati. Caro. Esatto, esatto. Caro Lafo. Eravamo qui dietro. Quant'era che non stavi qui con noi, Lafo? Tanto, tanto. Vabbè, ci sei mancato, eh. No, mi fa piacere sentirlo, ma posso non dirvi dirò. Che non sentiva la mia differenza, la mia mancanza. No, ascoltavo costantemente. No, io però voglio alla dire grande. Meglio da ascoltatore. Voglio dire io che sono molto contento che oggi manchino Tuco e Joao. Finalmente. Finalmente. No, oh, dai, su, ma andiamo avanti, ma facciamo passi avanti in questa trasmissione. Facciamo passi avanti, talmente avanti. Che? Talmente avanti che voliamo. Si va per aria. Voliamo, andiamo per aria. Addirittura, sì, perché questa è la grande novità che dico io. Posso dirlo? Posso pronunciarlo? Dai, tu pronuncia quel numero. No, provo a pronunciare la... We want the airways back. We want the airways back. The airways. Airways. Chiaro? Segnatevi sto numero. Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. 1359 AM. Segnatelo bene, spiccatelo bene nella testa. Oppure anche salvatelo sulla radio della macchina. 13.59 onde medie. onde mediocri, onde nostre. Questo è quanto, è ufficiale, siamo sulle onde medie. Potete trovarci, voi probabilmente ci starete ascoltando sullo streaming da wombat.onoblogs.org, ma proprio da questi giorni avete la possibilità di ascoltarci anche sulle radioline, quelle vere. Già, perché c'erano una volta le radio libere, nuotavano nell'etere con una certa imprudenza, ruggivano, impertinenti e contagiose. Cercavano di prenderle, ammanettarle, ammutolirle, ma non vi riuscivano, perché al tempo l'etere era un bellissimo bosco, intricato, senza troppe regole. Una pericolosa giungla, direbbe qualcuno. Un'affascinante foresta, diremmo noi. Un giorno decisero che il bosco andava riformato. Una spuntatina agli alberi, qua e là, dissero. Giusto un po' d'ordine. E arrivarono con ruspe e betoniere. Arrivarono leggi e decreti, catasti e garanti. E le leggi non arrivano mai senza ruspe e betoniere. Il bosco delle FM venne ripulito. Chi c'era da prima poteva restare. Chi arrivava dopo doveva pagare. Le frequenze, come d'incanto, da risorsa, divennero merce. C'erano una volta le radio libere, e ci sono ancora, ma il loro numero assomiglia a quello dei lupi sugli Appennini. Bellissimi esemplari isolati che sopravvivono in boschi assediati dal cemento. Eppure esiste ancora una porzione di aria che non hanno intossicato. Le frequenze per le onde medie, che sono un bosco che aspetta di essere popolato, dove possiamo sperimentare e costruire. E questa volta il bosco va difeso. Nell'agosto del 2016, dopo varie sollecitazioni da parte della comunità europea, il Ministero per lo Sviluppo Economico, MISE, ha pubblicato un bando per l'assegnazione di alcune radiofrequenze in onde medie, le AM. Il bando era lo scontro maldestro di due tendenze: concedere il diritto costituzionale alla trasmissione e dare in pasto all'economia anche questa risorsa. Quindi, mentre si dichiarava da un lato di voler privilegiare le radio comunitarie, le associazioni e i progetti culturali, dall'altro, con mano pesante, si favorivano di fatto soltanto le aziende e l'agenzia pubblicitaria. Eppure c'è un sottobosco, per l'appunto, di radioamatori e liberatori di frequenze, che da qualche anno, ostinatamente, dà battaglia perché le AM possono essere ripopolate con altre logiche. Su ondemediaitalia.it si possono monitorare solo alcune delle tante radio che sperimentano e animano questa porzione di etere. Noi partiamo da qui, da uno spazio libero, uno status legale incerto, ma relativamente favorevole, dalla volontà di fare radio autogestite, fuori dalle logiche commerciali, da una rete di hack-club, collettivi, individualità, che decide di sostenerle con la sperimentazione tecnica e l'autocostruzione. Abbiamo imparato insieme, sperimentato, sbagliato, rifatto da capo, gioito, sbuffato, tirato su antenne, bruciato transistor, saldato come pazzi. E ora alcuni di noi iniziano ad annunciarsi al mondo. Radio Wombat, ascoltabile a Firenze su 1359 AM. Applausi. Viva! Non solo Radio Wombat, anche Radiogramma ascoltabile a Genova, sempre sulla 1359 AM. Exactly. E speriamo anche molte altre. Molte così altre come in prospettiva. Così come ci scrivono, come scrivono gli autistici, il collettivo che un po' sta portando avanti questa grande battaglia, e con, si può dire, fino ad oggi è un successo, in quanto appunto Radio Wombat è una radio attiva e va proprio su quelle AM che si propongono di liberare. A questo punto si possono quasi dichiarare liberate. Dai, diciamolo. Dai, si può dire? Sono liberate. Libere. L'abbiamo liberate. Quindi a Firenze ci sarà una frequenza dedicata a questo. Stessa cosa a Genova, anche i compagni di Genova si sono accordati sulla stessa frequenza. Esatto, infatti questo comunicato era il preludio al lancio all'evento di lancio di questa grandissima novità, di questa grande rivoluzione, questa riappropriazione. Assolutamente sì, è un evento che si svolgerà questo fine settimana, sabato e domenica, in due giorni. Abbiamo pensato di farlo in due giorni perché uno non poteva bastare. Non ci basta. E appunto questo evento che si intitola, ora ce lo rilegge, Lapo. We want the airways back. Due giorni su radio e frequenze liberate. Si inizia il sabato del 3 marzo presso il CSA Next Emerson con una bella cena alle ore 20, mi raccomando venite. sostenete Radio Wombat, sostenete il finanziamento. Assolutamente, questo è tutto, tu sono tutti, tutti i soldini che darete li riascolterete, quindi sono investiti bene. Alle ore 21 poi c'è la proiezione di un di Boconas, che è la storia di Radio Deseo E delle mujeres creando de Bolivia, che è una radio boliviana, radio comunitaria. Una radio comunitaria in Bolivia, sì, che è tenuta da delle donne. A seguire c'è un live e, di questo gruppo che viene da Torino, che storico. Storico, sì, che è rientrato in attività di recente, sono i CCCCNCNCN, che si propongono di fare un rafting sonoro nelle correnti elettromagnetiche. Portatevi una radiolina, se assolutamente. Magari di quelle a pile, perché è importante. È una buona sorpresa, però questo rafting sonoro sarà, bello. Sarà bello, vi occorrerà avere una radiolina e accenderla insieme a tante altre persone che stanno lì con voi. È un rafting, non potete fare a meno delle attrezzature. Andate a fare rafting senza canoa, voglio vedere, o senza pagaie. Cioè, ecco. Quindi, quindi voi dovete venire e portatevi la radiolina. Poi potete lasciare tutto il resto, portatevi solo quella. E non finisce qui la non serata. Finisce qua. Non finisce qua perché c'è Bad Girl. Radiazioni spaziali, dice. Assolutamente sì. E in autodate Machine, pedali e MP3. Il nostro autodate che potete ascoltare anche su 8 Hz o 8 Hz, non so come si. Non lo so, 8 Hz. 8, 8. 8 Hz. Perché Haters è anche bello, sembra Haters. Haters sembra. Non so se è voluta, sì, sarà sicuramente voluta. Ingenietto, salutiamo. Bene, ma poi andiamo a domenica 4 marzo. Il secondo della due giorni. Alla che... polveriera Spazio Comune sta girata. Assolutamente sì, dalle 15 con workshop, amate frequenze, radioascolto spiegato a chiunque, dibattiti e racconti sulle nostre radio, storie delle radio pirata e delle frequenze liberate. No, quindi... quello mi sa che è un secondo, il primo è workshop sulle amate frequenze e poi se ah, sì, prosegue poi dibattiti e racconti, su un dibattito sì, con racconti delle nostre radio, appunto storie di radio pirata e frequenze liberate. E ci saranno appunto un sacco di ospiti. Alcune di quelle radio di cui parlavamo nel, citate nel comunicato, cioè citate sotto testo nel comunicato, ovvero Radio Onda Rossa da Roma, Radio Blackout da Torino, Radio Onda d'Urto da Brescia, Radio Gramma da Genova e Radio Morgan, che fu una radio liberata di Firenze nei primi anni 80. Esatto. Benissimo, poi naturalmente un aperitivo e il DJ set Wombat a seguire. Così potete finalmente associare un po' di volti a queste voci, che vi affabulano, esatto, su queste onde. Andateci piano, non ci saltate addosso quando vi rendete conto che siamo noi. No, a parte gli scherzi. Allora, potete naturalmente il programma lo trovate sul sito wombat.noblogs.org e oggi abbiamo... proprio un collegamento, avremo proprio un collegamento con un compagno di Radio Onda Rossa che andrà a spiegarci diverse cosette, però prima vi facciamo ascoltare una cosetta. Un pezzaccio? Ma forse anche uno spottino. Prima pezzaccio. Prima pezzaccio. Che hai scelto te? Palpitazione tenue dei CSI. Wombat. Con i primi peli le idee impazzano, quando con i primi peli le idee impazzano, cantava un guitto e lo cantava bene, cantava un guitto e lo cantava bene. Pietà è morta la speranza, il sangue mio bolliva nelle vene, il sangue mio bolliva nelle vene. Bene faceva sangue mio a bollire, bolli che ti ribolli, rischio di finire. Nasce un fanciullo uomo, allucinato, secco, ed era stato un bimbo, un dolce, caro, ma non era ancorato e volo via. Ma non era ancorato e volo via. Ma non era ancorato e volo via. Costretto a un vai e vieni in alto in basso. Per caso in vuoti e pieni e magro e grasso. Mi muove, ne convengo, un elastico ardente. Mi ammaglia, credo, una necessità perdente. Pallido figlio del ciel, sostengo bianca. notte lune, acceso sotto il sole, ardo d'amore rosso. A volte merito pietà e l'aspetto, a volte merito pietà e arriva con gli amici suoi, ma solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. Solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. È caloroso al tatto, all'occhio della mucca, il fiato dell'amante, regalità regnante, il cuore sulla bocca, morbidezza da gatto. Solo dopo i 30 avvenne che, non contento di me, tornai a casa senza legami, senza giuramenti a chi che sia che venga a reclamare alcunché. Cammino nei castagni, tra faggi e cerri, sotto cieli spaziali, traverso le radure, mi intrigano le felci, in rovinciampo, sapre di spine, cardi la mia pelle. Sapre di spine, cardi la mia pelle. Scoprei la mano mia, durezze nuove, lavai i pensieri miei, la pioggia dura, li attutisce la neve, la nebbia li rischiaccia, li strizza il sole, li accende il fuoco, li accende il fuoco, li accende il fuoco e li consuma poi. Palpitazione tenue, un nodo nella gola, vaga in questa notte serena il ricordo, vaga in questa notte serena il ricordo, palpitazione tenue, un nodo nella gola, un nodo nella gola, un nodo nella gola. Sia con noi, qui con noi, non ci lasci d'ora in poi, si ricordi che poi i soldi li versiamo tutti noi, induzioni scollegate, valvolone riparate, qui su tutto c'è una toppa, ha dei dubbi, chiede ai piatti, bible cat, bible block, dopo tutto non c'è un sol, saldatore qui da non si è fantasti. Parla al microfono, sembra un grammofono, stia con noi, qui con noi, sì con noi. Ullala, che farei? Io sul sito cliccherei. Ora tutto è preparato, il ballerino accanto a lei. Il crowdfunding vuole te, sì mia cara, anche me. Se sottoscriviamo in tante, finirò in un istante. Suonerò, parlerò, non è una radio, questa o no. Parlerà sempre chi voce non ne ha. Abbiamo un po' da far per non dover crepar, ma stia con noi. Qui con noi, stia con noi, qui ci manca solo lei. 40 anni che ci voglio chiudere qua, che ossessione, ma vedrà come qua tutto splendido sarà. Con le casse rimportate rifaremo le chiamate. No, anche dopo un po' lei dirà, questa è Roy. Allora canteremo con amor, che rivoluzionare è ora di iniziare. Sia con noi, sì con noi, sia con noi, sia qui con noi. Oi, oi. Bellissimo questo spot, eh? Grandi amici. Questo per dire cosa, come avete sentito, quindi... Avete sentito che cosa è successo? Pronto, pronto, pronto. Si è rotto il microfono del nostro brick, ma il mio ancora funziona, evviva. Ecco, è il filo. eri rotto. Non solo il microfono. Ora va. Questo che avete sentito era lo spot prodotto dai compagni di Radio Onda Rossa di Roma per lanciare il crowdfunding per riparare a un danno che gli è successo, che gli è occorso, gli si è rotto, cos'è che è di preciso? Il trasmettitore. Il trasmettitore proprio. Quindi un proprio. Pacco di soldi, la cosa più importante. No, quelle sì. sono le persone. Sa che hanno grosse mire, ma... non solo lo vogliono riparare. Sì, lo vogliono anche bomba. Rilanciano. Nuovo. Lo vogliono nuovo. Lo vogliono comprare nuovo. Appunto, si capisce dallo spottino che per una volta hanno intenzione di comprarlo nuovo. E non di costruire. Però proprio per questo abbiamo, e per capirne un po' di più, per farci spiegare per bene, abbiamo telefonato direttamente a Radio Onda Rossa, a un compagno che è in collegamento telefonico. Vediamo se ci sente, se lo sentite. Io vi sento molto bassi, per la verità. Siamo bassi. Se potessi sentire meglio, okay. Sarebbe bellissimo, ma altrimenti ci accontenteremo. Ci mettiamo in piedi adesso, allora. Te invece sei perfetto. Ciao, buonasera. Benissimo. Buonasera, buonasera, no, bentrovati, bentrovate. A te. Che dire, sì, è proprio così, nel senso che il trasmettitore qualche mese fa, se non sbaglio, nei pressi del Natale, ci è arrivato quindi questo fantastico regalo in cui, dopo un po' di disturbi che avevamo al trasmettitore, il nostro tecnico di fiducia ci ha detto: ragazzi, scusate, io l'ho aperto questo trasmettitore e questo trasmettitore è prossimo all'autodistruzione, non ce la fa più. Del resto è 20 anni e più che ce l'avete, non, ha fatto il non suo. È mai stato un gioiello, alla centesima riparazione evidentemente sta esalando, non conviene più ripararlo, siamo arrivati al punto in cui ripararlo non ha più senso e bisogna ricomprarne un altro. Che in realtà per la maggior parte delle radio, la maggior parte delle radio, che quindi sono radio commerciali, perché il grosso del panorama radio è dominato dall'informazione o di Stato o strettamente commerciale, una spesa una come quella che tra poco vi citerò è una spesa da poco rispetto al modo in cui si manda avanti in radio. Per noi invece la spesa di 19.000 euro ci è sembrata un colpo al cuore, un evento incredibile rispetto alle nostre finanze che sono già sempre proprio a raschiare degli ultimi spiccioli per sostenere le spese ordinarie, e quindi abbiamo deciso che se la situazione era straordinaria serviva anche una campagna di sottoscrizione straordinaria in cui era necessario impegnarsi per spiegare molto bene perché avevamo bisogno di questa cifra per noi veramente incredibile. Ve lo dico chiaramente, noi avevamo seri dubbi di riuscire a farcela con questa campagna di finanziamento che abbiamo lanciato e ne abbiamo avete provato ancora, allora dire, facciamo una campagna un po' diversa dal solito, vediamo come va, se riusciamo a fare un bel crowdfunding che adesso va di moda come parola, ma è anche un po' diversa come modalità. Ma hai detto che avevate paura di non raggiungere la cifra, quindi vuol dire che invece la prospettiva si sta mettendo meglio? La prospettiva si sta mettendo meglio, nel senso che dalla cifra siamo ancora abbastanza lontani, però come dire, l'abbiamo lanciato da meno di un mese e i risultati sono incoraggianti, nel senso che noi abbiamo l'obiettivo di arrivare a 19.000 euro per l'acquisto di questo nuovo trasmettitore e siamo arrivati per adesso a 14.000, quindi ce ne mancano 5.000, abbiamo abbondantemente superato la metà. Questo è stato per noi una gioia incredibile, anche perché come dire, è stata anche una misura, no, dell'ascolto, dell'affetto per una radio, del supporto che abbiamo ricevuto. La stragrande maggioranza delle donazioni sono donazioni veramente piccole, ma fatto col cuore, quindi sono un mare di donazioni da 10 euro che ci hanno permesso di arrivare a questi primi 14.000 e no, ci hanno confermato una cosa che in fondo sapevamo, che è una radio che un sacco di gente si sente e ce l'ha a cuore, sono quasi tutti quanti degli squattrinati e delle squattrinate quasi quanto noi. Ed è giusto in fondo che sia così, non ambivamo a una platea più selezionata e nemmeno a campare di pubblicità, di finanziamenti, di partiti amici o niente del genere. Giusto, super condivisibile. E quello che se ne è, come dire, è anche l'occasione di ribadire, insieme proprio all'invito più materiale a sostenere questa campagna di crowdfunding, cosa che potrei fare andando sul sito di Radio Onda Rossa, che è ondarossa.info, c'è un banderone lì, voi ci cliccate e andate sulla pagina da cui potete fare le donazioni, E questo è un invito materiale che rilancio e vi ringrazio per la possibilità di farlo. E noi sottoscriviamo. E l'altra cosa su cui forse è interessante riflettere è il quanto è difficile tenere in piedi una radio con questi paletti molto semplici: no pubblicità, no finanziamenti, no partiti, una radio che quindi abbia pur decidendo, come dire, di fare una radio che si definisce militante e che quindi non paga chi di fatto la manda avanti, quindi da alcuni punti di vista abbiamo delle spese contenutissime rispetto a una qualsiasi emittente commerciale, eppure queste spese contenutissime sono in pratica un sacco di soldi. Ed è anche un mondo, quello dell'FM, in cui è persino difficile entrare, perché io parlo per Roma, che chiaramente è la situazione che conosco meglio, ma la stessa cosa vale un po' dappertutto, e in particolare nelle grandi città. Il mondo delle frequenze è un mondo in cui chi c'era dentro, come abbiamo avuto la fortuna, l'occasione di esserci stati noi dal 77, ha quello spazio. Se vuoi inserirti in quello spazio devi necessariamente avere qualcosa alle spalle, perché parliamo del fatto che il costo di una frequenza gira intorno almeno al milione di euro. Urca, assolutamente Urca. Inarrivabili per chiunque noi, però in tutto questo se per le frequenze FM si può fare, cioè, le cifre sono queste, per le frequenze M invece la questione è un po' diversa, giusto? Sì, per le frequenze M è tutta un'altra questione, nel senso che non c'è un mercato perché non c'è una legislazione, le due cose sono andate di pari passo. Brevissima storia, proprio in quattro parole, dell'FM, è che nell'FM com'è andata? Prima era abbandonata perché in realtà non ci trasmetteva nemmeno la radio di Stato, è stata usata appositamente una radio pirata proprio perché era libera e non c'è una legislazione sopra, ma anche dei vantaggi tecnici in termini di praticità di trasmissione. C'era più facile fare una radio pirata in FM e quindi tante radio pirata sono nate. Quelle radio pirata a un certo punto hanno iniziato a richiedere un intervento legislativo che ne calasse la condizione, quindi nascono le cosiddette radio libere, ma nel senso commerciale del termine, quindi radio che non erano radio di Stato ma che comunque erano radio di intrattenimento, radio commerciali e così via. Si chiede una soluzione allo stato legale un po' incerto, e questa soluzione è una soluzione che fondamentalmente crea un mercato, cioè sana la situazione esistente dicendo chi già trasmetteva può continuare a trasmettere. Per il resto il mondo delle frequenze è puramente una cosa che si detta dalla propria capacità di comprare e di vendere. Non c'è un diritto a trasmettere in maniera rappresentativa secondo nessun criterio, che sia una lottizzazione partitica, che sia una rappresentanza delle minoranze, che sia un generico diritto ad un'informazione plurale. Non c'è nulla di questo. Cioè tu, se te le compri tutte, sono tutte quante tue. Come? O c'hai soldi o c'è soldi o niente, non c'è nessun altro modo con cui puoi avere una frequenza, e non c'è nemmeno niente che impedisce di concentrare il panorama dell'informazione, perché poi capiamoci, le radio FM, i canali FM in ogni provincia sono circa 100, e la maggior parte di questi appartengono a un piccolo gruppo di grandi produttori, che poi sono gli stessi produttori dell'informazione di sempre, quindi appartengono al gruppo De Benedetti, appartengono al gruppo Caltagirone, appartengono a pochi altri gruppi e sono sostanzialmente controllati. Quindi in realtà è tutta questa varietà di radio che ci vorrebbe essere. In realtà il panorama della radio offre sostanzialmente un gruppo di voci piccolo e tra l'altro comunque con poca varietà anche tra questi gruppi. Non si dimostra quindi un affare strettamente commerciale e non valorizza nient'altro. Ecco, rispetto a questo, quindi penso l'esperienza di Radio Onda Rossa, ma non solo quella di Radio Onda Rossa, evidentemente, è un'esperienza che io credo che sia importante far proseguire, perché è un qualcosa, come dire, è un po' un unicum, certo. Cioè non risuccederà facilmente la creazione di radio che hanno una frequenza in concessione e che però sono esenti da queste logiche commerciali. Mantenerle in vita è difficile, per farlo c'è bisogno del supporto di tutti e di tutte, tanti punti di vista, e quindi ecco, grazie anche a voi che ci state supportando in questa maniera. Ma guarda, noi siamo ovviamente super contenti di potervi aiutare in questa fase, siamo anche contenti di avervi ospiti come Radio Wombat questa domenica, a sentir parlare proprio di queste cose, di questa storia delle radio libere all'evento, appunto, da due giorni che organizziamo qua da noi. E ovviamente diciamo che, no, come dire, la nostra esperienza in qualche modo è da quello che ho detto, un po' una delle cose conseguenti è invece proprio la scelta che avete fatto con Radio Wombat, che è una scelta che mi sento di appoggiare e di sostenere, perché ecco, ho sentito che avete proprio letto il comunicato. L'annuncio, il comunicato di lancio, la frequenza, e che mi sembra un'iniziativa molto bella per riaffrontare questo nodo, no? Cioè quella capacità di trasmettere cose migliori della solita pappetta commerciale, e anche riaffermando la legge. E anche sì, riaffermando il valore di non fare le cose commerciali, quindi autofinanziato, autogestita, una radio che senza sponsor, senza pubblicità o partiti che la sponsorizzano. Quindi questo noi condividiamo completamente anche l'impostazione di Radio Onda Rossa, e non lo nascondiamo da nessuno, anzi lo diciamo a voce apertissima. Ci siamo ispirati da voi. Nonché dal vostro aiutati anche in pratica da voi, dalle vostre competenze tecniche, proprio appunto in fase della costruzione fisica, concreta della radio e dei mezzi per trasmettere. Quindi sul piano ideale, sul piano pratico. È una radio che, no, che sembrava ormai morta, ma non c'è nessun motivo in realtà per cui dovrebbe essere così, perché è vero che in Italia la radio FM è sostanzialmente l'unica radio che le persone utilizzano, ma in realtà questo è vero a partire dagli anni 80, cioè prima degli anni 80 la radio AM era la radio più usata e non la FM, e non solo, ma questo è vero, non dico solo in Italia, ma soprattutto in Italia. In tantissimi altri paesi la AM è molto più utilizzata dell'FM tuttora, parlo della Spagna, parlo della Grecia, parlo per certi versi della Francia, parlo soprattutto degli Stati Uniti, ma anche delle radio, tantissime radio in Africa, in generale in tanti posti in cui anche la geografia è un po' diversa e dove la AM non è stata monopolio esclusivamente dello Stato, le radio AM sono molto diffuse, quindi è un mezzo ancora attuale in realtà, non dobbiamo pensare che un mezzo sia obsoleto solamente perché in Italia è un mezzo sostanzialmente quasi dimenticato. Vedevamo anche le radio comunitarie in Sud America. Citavamo il documentario che sarà proiettato, Boconas, la radio delle mujeres creando, dov'era? In Bolivia. Insomma, è un universo affascinante e apparentemente qua da noi inesplorato, e quindi noi ci siamo lanciati e vediamo un po'. Sì, quasi inesplorato, perché il bando che risale a luglio dell'anno scorso in verità ha assegnato alcune frequenze, però anche se sono cadute tutte nelle mani di agenzie pubblicitarie e aziende, ecco, quindi. Ma anche perché il bando era proprio tarato sulle esigenze di agenzie pubblicitarie, di aziende e grandi gruppi, quindi non deve stupire che quella è la risposta, se la domanda era mal posta, no, diciamo. Beh, ma per intanto comunque al di là dei bandi, ancora uno spazio di libertà, a quanto pare l'AM lo offre, ma per chi come noi o altri, insomma, non ci ha avuto la possibilità o la lungimiranza fin dalla prima ora comunque di mantenere quella frequenza presa dagli anni 70 in FM, volevo dire, sembra essere forse davvero l'unico spazio in cui oggi si può riacquistare questa possibilità di trasmissione via etere, e non di meno, insomma, da qui anche vogliamo sostenere quelle sacche di resistenza come sono Radio Onda Rossa, che in FM stanno continuando a trasmettere, che abbiamo tutto l'interesse a che continuino a farlo, direi. Dunque, insomma, banalmente io mi associerei al massimo all'invito che stiamo facendo dall'inizio di questa telefonata, cioè quella a sostenere il crowdfunding per l'acquisto del trasmettitore per Radio Onda Rossa. Si è messo anche il bannerino sul wombat.noblogs, che rimanda appunto. Ah, che meraviglia, sono messo, che bello. E come no? Ma avete allora, intenzione... vediamo, i vostri ascoltatori hanno una scorciatoia anche per arrivare sì. a sostenerci. Ma avete intenzione di andare sulle frequenze AM anche voi di Radio Onda Rossa? Non abbiamo piani al riguardo, ma anche perché la situazione legale per noi sarebbe complessa, quindi non lo so, è sicuramente molto attraente come prospettiva, ma non credo, non abbiamo nessuna idea in merito, però sicuramente mi sento di sostenere chi invece lo sta facendo, perché per esempio la radiofonia è un mezzo potentissimo, noi ce ne accorgiamo spesso con questo motivo del crowdfunding, ce ne stiamo accorgendo una volta di più di quanto riesce a essere diretta e comunicativa, e anche più del malgrado quanto si dice, anche più dello streaming via web, che è sicuramente uno strumento utile, è il metodo con cui io riesco ad ascoltarvi da Roma, di questo sono molto contento, ma lo streaming via web non riesce ad avere quell'immediatezza, no? Quel fatto per cui io torno a casa, accendo lo stereo e ho la radio in tempo reale e con una semplicità incredibile in automobile, in bici, in casa e così via. Molto bene. Non ci resta, direi, che ricordare l'indirizzo radioondarossa.info oppure come ondarossa.info. Ondarossa.info. Io ricordo senza dirlo giusto, infatti, scusa. Ondarossa.info e poi naturalmente ci vediamo domenica presso gli spazi della Polveriera. Certo. Lunga vita, a presto, allora, grazie allo spazio. Grazie, grande, grazie mille. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio, ciao. Sì, l'avete Radio sentito. Radio Onda Rossa, no, ondarossa.info, campagna di crowdfunding per il nuovo trasmettitore. Dai, forza, ci stiamo dentro. Su, sosteniamoci, a vicenda. È così, è mutevole. Mutualismo. Noi si aiuta loro, loro aiutano noi. Assolutamente sì. Poi chissà, per chi non la conosce può essere anche un'occasione, fra l'altro, per chi ci dovesse ascoltare e non avesse mai avuto occasione di sentire Radio Onda Rossa, insomma, può essere davvero questo la prima occasione per farlo. Se avete dei dubbi se è giusto o meno donare qualcosa per questo trasmettitore, beh, ascoltatevela prima e poi decidete. Ci rimettiamo. Vi passeranno i dubbi. Ma non c'è verso, non l'abbiate mai sentita. Anche solo per la fantastica Scarceranda che pubblicano ogni anno per sostenere le lotte anticarcerarie. Chi non la conosce, dai. A Roma la conoscono tutti. Mettiamola così. Bene, bene cari, andiamo avanti. Cosa si prevede la giornata? Io leggo Disco Grippo. Grippo legge Disco Grippo. Sono io. Ah, ciao. Voilà. Allora, ma prima di mettere il disco, ma una canzoncina. Una canzoncina ora? Ma una canzoncina fatta bene. Prima del disco una canzoncina poi. Una cosina fatta in casa. Cosa sta alludendo? C'è un'allusione, ma non colgo. Nessuna allusione. Io pensavo invece di mandare uno sputtino. Sputtiggiamo. Yuri! Dai che c'è il festival! Dal 17 al 20 maggio presso la Polveriera Spazio Comune, terza edizione del Festival di Letteratura Sociale. Presentazioni, dibattiti, concerti, spettacoli, banchini ed esposizioni. Con la partecipazione di Alberto Prunetti, Davide Grasso, Marta Fana, Ilaria Agostini, Lello Voce, Edoardo Rialti, Vanni Santoni e molti altri. Programma completo su lapolveriera.noblogs.org. Eccoci qua. Salve a tutti. Andiamo. Ciao Grippo. Ciao belli. Andiamo quest'oggi a scoprire un tizietto, un cantante americano che ho scoperto la settimana scorsa, così andando a giro per internet. Mi ha appassionato un attimino la sua storia. Ed è un disco di 2 anni fa, del 2016. È giovane. No, non è giovane. È il primo? Attenzione. No, è il suo terzo disco in realtà. È l'ultimo uscito dei suoi dischi. Ne ha fatti 3. Attenzione, uno nel 1996, uno nel 2014 mi pare, uno nel 2016. Quindi un bel lasso pausina di tempo nel mezzo. In corsa. Quella che state sentendo sotto si intitola Working Poor. Dagli corpo, dai. Eccola qua. C'è un bel incedere. Sì. Viaggia. Lui com'è che si definisce? Allora, ma lui Aspetta. Classe 1968, si chiama Fantastic Negrito. Di nome. Dai. Ed è. Mai sentito. È un personaggio. Is Black Roots Music for Everyone. Blues with a Punk Attitude from Oakland, California. Mamma mia. Cioè, è un bluesettone più gospel, più soul, più rock, più un qualcosa di pop. Una con cosa punk strana. Attitude. Sì, esatto, con punk attitude. Che cosa andiamo a dire? Praticamente andiamo a parlare un pochino di questo tizio, che cosa ha fatto nella vita. Perché questo tizio dice di aver avuto 3 vite. Fantastic Negrito si chiamava Javier Amin Gerdepolez, una cosa illeggibile. Ottavo di 14 figli, da famiglia musulmana strettissima di regole, a Oakland. A 12 anni... cominciamo le sue vite. Lui ha avuto 3 vite e questo disco arriva dopo la terza vita, diciamo. Lui dice di averne avuto. È tipo è rinato. Sì, una cosa Tiger del Man. Genere. Prima chi, vita. Chi? Aspetta, tipo chi? Hai detto Tigerman? Tigerman? No, dici bene. Quante vite aveva Tigerman? Vabbè, ce ne avute diverse. Una autodata. Vabbè, vai, dai. No. Stiamo sul pezzo. Non come si fa a spengere il microfono? Allora, andiamo sulla prima vita. Lui aveva ha avuto un'infanzia difficile in famiglia musulmana stra mega stretta. Scappa di casa e si trova nel grande giro della droga, del crack, a Oakland, finché non arriva a un certo punto, intorno ai 20 anni. Allora, nel frattempo studia musica, introducendosi clandestinamente nelle classi dell'università locale di musica. Nel frattempo rimane quasi vittima di una sparatoria, e questa prima vita, e se ne va a Los Angeles con in tasca un demo discografico. Aveva il suo piccolo, le sue prime canzoni, che ha consegnato per un fortuito caso a Joe Ruffolo, che era il manager di Prince, il quale poi gli ha fatto un contratto discografico gigantesco da 1 milione, poi fallimentare. Cioè, poi alla fine il suo primo disco, che è uscito nel 96, che si chiamava The X Factor, è uscito come Javier, come nome artistico, un floppone, tremendo floppone. Cosa succede? Lui vende quasi tutti i suoi oggetti musicali, si dà a fare delle feste assurde, per cui viene anche arrestato a Los Angeles, faceva queste feste in questo attico, questa roba di musica, arte contemporanea. La seconda vita questa. Gioca, così, seconda vita. Cosa succede? Nel 2000, incidente di macchina, 3 settimane in coma, sta malissimo, se la guanta male. Avvia questa riabilitazione durata dei mesi, in cui rincomincia a reimparare a suonare. Si vede anche nei video, è molto espressivo come personaggio, recita molto le sue canzoni, però c'ha dei movimenti molto strani dovuti a questa riabilitazione che ci ha avuto dopo questo incidente in macchina. Com'è che si è riabilitato? Attenzione, coltivando verdure, allevando polli e coltivando ganja. A un certo punto dice di aver avuto un figlio. Ho capito, il di primo avuto... coltivando. Esatto. E di aver avuto a questo punto una sua grande svolta artistica. E ha tirato fuori questo disco, che nel 2017 ha vinto il Grammy come miglior disco contemporaneo blues, che si intitola The Last Days of Oakland, che ripercorre appunto tutte queste vicende che ci ha avuto lui all'interno della vita. e parla, diciamo, della sua condizione di vita e della condizione di vita a Oakland in questo periodo, estendibile volendo al mondo. Andiamo a sentirci un pezzaccio blues rock d'amore, perché è uno dei temi, come sempre, per ogni bluesman che si rispetti. Si intitola Scary Woman. Questa qua che sentite in sottofondo è, diciamo, la canzone più famosa di questo disco, di riesordio, diciamo, di Fantastic Negrito, sotto il nome appunto di Fantastic Negrito, dopo che prima si era chiamato Javier, e si intitola Lost in a Crowd. Andiamo a parlare un attimino di che cosa parla in questo album. Abbiamo sentito all'inizio della rubrica in sottofondo Working Poor, che... è una canzone di esclusione sociale, di problemi con il lavoro, in cui, insomma, si dice him, evil genius, turned working people into working poor. Il genio del male ha cambiato, ha trasformato i lavoratori into working poor, in lavoratori poveri. Parla della condizione delle persone che, nonostante lavorino, ecco, non riescono a stare al di sopra della soglia di povertà. Scary Woman, quella che abbiamo sentito, è un bluesettaccio roccaccio, in cui si aspira a una donna inarrivabile. She thinks too tall, si dice, lei pensa troppo alto. I gave her every inch of my dreams, she said it's too small. Ho dato ogni metro, diciamo, ogni piede dei miei sogni, e lei invece pensa che sia troppo poco. Questa qua invece è Lost in a Crowd, quella stiamo sentendo qua in sottofondo, e Persi nella folla, un'altra canzone di confusione, di disadattamento sociale, di disagio. E We Are Just People, Lonely People, You and I, ancora il grande amore del blues. E andiamo invece a sentirci una delle ultime canzoni del disco, che si intitola The Worst, cioè il peggiore. E dice la frase centrale della canzone, dice: Money and power, the root of all evil. I soldi e il potere, le radici di ogni male. Andiamoci a sentire Wombat. Now Capone, people never leave me alone. E rieccoci qua. Fantastic Negrito. Fantastic Negrito. Ma è un tipo curioso, eh. Andatevi a vedere i video. Splendido. Perché è proprio strano. Si muove anche in modo strano. Questo pennellone. Questa storia che si è preso un bello stonfo in macchina. Ci sta. Quindi, anche gli abbiamo nulla, tutti sti stonfi è diventato figo alla fine. Si vede, ci ha provato diverse volte. Poi. Chissà quante altre vite lo aspettano. Esatto, boh, chissà. Speriamo mille. Sì. Mille di queste vite. Speriamo meglio di quelle precedenti. Sì. Tutte le volte. Una volta è finito, certo, sparato, sempre. Una volta è finito stonfato. Stonfato. Un'altra volta è finito a fare il disco. Figliolo, disco, ganja. Ha fatto tutte queste cose qua. Vabbè, lascia fare. Vabbè, lascia fare, tutte cose molto belle. Bene, sempre ottima musica qui su Fuoco alle Polveri, grazie al disco di Grippo. E tutte le settimane. Quasi tutte quasi le settimane. Tutte le ci quando posso. Quando ce la fa. Quando ce la fa. Viva! Che devo dire? Wombat Wombat, è questa la frase di conclusione. Andatevi a sentire Fantastic Negrito, The Last Days of Oakland, del 2016. Anche quello prima era bellino, però, che si intitolava proprio Fantastic Negrito, bellino un sacco, cioè, è tipo sei pezzi, due sono bellini. Insomma, ero indeciso tra questo e quell'altro, poi ho scelto questo. Però sentiamoli tutti. Sì, sentite Fantastic Negrito. Metteremo anche un bel link sul podcast, così lo ritrovate facile. Tipetto. Sì, io sì, in prima persona me lo vado a ricercare subito appena torno a casa. A proposito di podcast, andatevi a sentire anche l'ultima puntata della rassegna stampa che è andata in onda oggi all'ora di pranzo, ma che la potete risentire o nel palinsesto, lo trovate la sera dopo di noi, stasera già alle 7 mi pare. Dopo di noi già alle 7, sì, così come anche il mercoledì e il venerdì, sia l'ora di pranzo che l'ora di cena. Poi naturalmente il podcast lo trovate sempre disponibile sul sito, così come troverete questa puntata, così come troverete la rassegna eventi e le altre rassegne stampa che sono andate in onda poco prima di Fuoco alle Polveri. Non troverete invece il bannerino di Radio Onda Rossa che avevamo accennato prima, perché evidentemente ancora non si è aggiornato il sito, ma provvederemo. Ci ho detto una bugia. Sì, abbiamo scusateci, sono Radio Bomba. Scusate Radio Onda Rossa. Assumiamo il tu. Buono. Per bene, avanti, in questo freddo per andare avanti dobbiamo scaldarci. E sì, quindi volevo cosa un aggiornamentino un attimo dal divertente al serio. Da posti caldi. Come avete sentito, abbiamo seguito un po' le faccende curde, i bombardamenti su Afrin, le manifestazioni che sono seguite anche qua in Italia per contestare il regime turco e... c'è giunto ieri, o quantomeno l'ho letto ieri, un messaggio da Davide Grasso, che è un compagno torinese ex combattente dello YPG, che è stato appunto là a combattere, e da quando è tornato ha fatto una grande opera di informazione, ha anche pubblicato un libro per Alegre, Hevalen, che significa compagno in curdo, credo. E niente, ci scrive questo messaggio perché a quanto pare Facebook gli ha oscurato il profilo. Ve lo leggo, non sto a parafrasarlo. Mi chiamo Davide Grasso. Il mio profilo Facebook è diventato più popolare da quando ho scelto di andare a combattere l'ISIS in Siria nel 2016 nelle fila dello YPG. In quei mesi ho utilizzato il mio profilo per informare la community di Facebook su quanto fosse drammatica la situazione in Siria, ed anche per sensibilizzare su quanto migliaia di ragazze e ragazzi arabi, curdi, cristiani, internazionali stessero facendo per combattere il califfato, che nel frattempo continuava a seminare morte sia nel mondo del musulmano che nelle nostre città, da Parigi a Nizza, da Manchester a Londra e Barcellona. Nell'ultimo mese, gli stessi ragazzi con cui ho combattuto per un mondo senza fondamentalismi sono stati attaccati dalla Turchia e dai miliziani di Al-Qaeda in una piccola città che si chiama Afrin. Afrin è una città dove, dopo 6 anni di bombardamenti e in mezzo ai massacri della Siria, qualcosa di positivo è avvenuto. Il governo è stato assunto dalle comuni e assemblee del popolo, e le donne hanno deciso di ribellarsi e decidere sul proprio destino. Io ho cercato di informare su cosa stesse accadendo e su quali fossero le attività della popolazione e delle donne di Afrin, ma soprattutto sull'orrore dei bombardamenti turchi che hanno provocato in poco tempo quasi 200 morti civili e oltre 400 feriti e migliaia di sfollati. Facebook ha bloccato il mio account. Era uno dei pochi canali di informazione su questa tragica situazione, anche perché era lì che pubblicavo ciò che mi scriveva Jacopo Bindi, un amico italiano che si trova in questo momento laggiù, sotto le bombe e a rischio della vita, per non lasciare sola quella popolazione. Facebook non ha dato alcuna spiegazione per questo gesto. Premesso che la censura è da rifiutare sempre, non è chiaro quale interesse Facebook volesse tutelare. Quelli dei miliziani fondamentalisti che in questi giorni ad Afrin si fanno i video selfie mentre asportano i seni dai corpi martoriati delle donne curde? Oggi, in gran parte del pensiero critico viaggia sui social network, e Facebook è uno dei social più importanti del mondo come numero di iscritti. Ma è anche un'azienda privata che tutela i suoi interessi e ha rapporti con molte imprese e molti governi, tra cui anche quello della Turchia. Silenziare chi fa informazione sui massacri dei civili su richiesta di chi li sta massacrando, cioè la Turchia, sarebbe inaccettabile. Di fronte a quello che sta succedendo ad Afrin, Facebook dovrebbe astenersi dal fare censura e, se non lo fa, dovrebbe essere richiamato alle sue responsabilità umane, anche perché siamo noi umani che lo riempiamo dei contenuti e che lo fanno esistere. Non la sua proprietà, che per di più ha sempre più lo stile di un'inquisizione. E non è possibile mettere il potere e i soldi davanti alla vita delle popolazioni civili, tanto più in Siria, dove la gente ha già patito abbastanza, anche senza la censura di Facebook. Denunciamo gli abusi contro i profili che diffondono informazione intorno a fatti tragici, perché Facebook può voler tutelare l'imbarazzo ipocrita dei carnefici, ma noi dobbiamo avere a cuore le vittime. Continuiamo per la Siria e per Afrin. Save Afrin, speak up for Afrin, women rise up for Afrin. Hard working woman, nothing but a man's slave. Hard-working woman ain't nothing but a man's slave. She worked hard all her life, and a dime she can save. She worked hard like a mule down in the Georgia cotton field. She worked hard like a mule down in the Georgia cotton field. You should know people now just how she feels. Some bread. She come home every Friday, and she better bring some bread. If she don't, he will go upside her head. gonna leave at midnight and put that damn fool down. She gonna leave at midnight and put that damn fool down. She gonna find herself a working man to fill her empty crown. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Sentite i motori, li sentite? Su su, su. Der Start. Su su. Eccoci. Sulle mani. Su su su. In serio al faceto. Basta serietà. Dal serio al faceto, al serio al tracollo. Eccoci al tracollo, amici. Benvenuti, sta succedendo un sacco di cose. Stiamo succedendo un sacco di cose in questo momento. Ciao amici, allora questa rubrica si chiama Maldonado non si guarda in bocca. Grande rubrica sul motorsport, in particolare sulla Formula 1. Stanno correndo. Oggi è il primo giorno di test a Barcellona. Grande primo giorno, presentate nella scorsa settimana tutte le macchine. Se la stanno correndo. Questa mattina hanno fatto il primo test. Noi deve dare un po' di su perché senza la base. E dai. E allora, dicevo, stanno correndo proprio oggi. Stamani mattina hanno fatto la prima sessione di prove. Un pilota per ogni scuderia. Per la Ferrari, grande Kimi Raikkonen, aveva fatto il miglior tempo, che poi gli è stato strappato in ultima battuta da Bottas della Mercedes e ancora di più da, non me lo ricordo, ah, da Ricciardo della Red Bull. Da Ricciardo della Red Bull. Quarta posizione per adesso ce l'ha Hülkenberg con la Renault. E vai, che sta andando bello forte, pare, con la Renault. Insomma, gialla la Renault. Gialla, gialla, con dei toni molto neri. Non so se avete visto le livree, sì, delle scuderie. Molto più nera e gialla. L'hai vista, vero? Sì, l'ho vista. Grande, per grande. Sì, l'altro giorno ho pensato a te. Grande, grande. La Ferrari invece l'ha levato di torno. Il bianco e il nero che c'aveva prima. C'è, è tutta rosa, c'ha qualche schizzettino. Comunque, stanno correndo oggi, primo dei quattro giorni di test a Barcellona. I prossimi saranno fra tre settimane. E poi, dai dai, che il 20 marzo si riparte col Gran Premio. Con il Gran Premio di? Ah, in Australia. Si corre in Australia. In Italia si vedrà alle 8 di mattina. Tutti pronti con la sveglia. Però, ascolta, se non dai la base alta qua, non si va avanti. Hai ragione anche te. Che cosa è successo nel frammentre? Hanno, hanno presentato le macchine, dicevo. Fra cui hanno presentato la Ferrari. La Ferrari ha un sacco di importanti innovazioni che però io non capisco. Ecco, perché è un po' non le capisci è roba da ingegneri, amici, io non ci capisco un cazzo. Vi posso dire quello che ho notato comunque. Vai. Ci sono gli specchietti bucati. La Ferrari ha gli specchietti bucati. Per aerodinamica sarà. Io penso sia un colpo di scena perché fino ad oggi non ce l'avevano bucati, quindi. Ma come fanno a vedere? È una buona domanda. Secondo me gli hanno fatto tipo un passaggio per rifrullare l'aria sopra e sotto al vetro. Per fare tipo una cosina. Deve servire all'aerodinamica, non lo so bene. Ok, buono. Però anche sul motorino. Ho notato questa cosa. Come? Lo metterò anche sul motorino per provare le. Lo proveranno, lo proveranno. Non ho capito. No, faccio anche su quello di motorino per vedere se funziona. No, lui lo mette sul motorino. No, tu c'è tanto di strozzate. Vai, vai. Allora, e dietro la T-Wing, che sarebbe l'ala T. Quella che. Ma quella c'erano stati dibattiti. Grandi dibattiti. Avevano deciso teniamo. La tengono. L'hanno tenuta la Ferrari. Nonostante le nostre. No, noi non ci piaceva la T-Wing. Non ci dispiaceva. A noi non ci piaceva. Però a noi non ci piaceva la pinna mobile. Dietro c'era un pinnone che l'hanno levato quello. Perché la McLaren ha fatto il veto. Si è imposta, hanno levato. La T-Wing è rimasta. Andava bene. McLaren e Radio Wombat. E Radio Wombat hanno fatto il veto alla FIA. La T-Wing della Ferrari quest'anno è un po' imbronciata. Anzi, essere una T è un po' una D sopra una gamba. Cioè tipo un po' curva, capito? Un po' imbronciata. Questi sono i due dettagli tecnici che io ho notato della nuova Ferrari. Poi ho letto che ci sono diverse analisi degli ingegneri, roba importante. Però mi è anche difficile parlare di deviatori di flusso. E so, a malapena che cazzo sono io. Ma scusa, posso... Sì, dimmi. Invece una cosa tecnica. Aspetta, aspetta. Ah, perché Kimi Raikkonen, a proposito di presentazione, il nostro grande pilota favorito, il nostro grosso scudiero. Quando hanno fatto la presentazione, dopo ha guardato la macchina, tutte le foto, poi sono arrivati i giornalisti, gli hanno fatto: allora Kimi, com'è la macchina? Descrivicela, che ci dici? Kimi Raikkonen la guarda, fa: è rossa, è bella, e basta. Quindi, secondo il pilota ufficiale della scuderia, la nuova Ferrari è rossa ed è bella. È tutto per la sorpresa, dai. E vedremo. No, ha detto no, finché non è in pista non si può capire. Adesso c'è questa occasione, adesso a Barcellona stanno correndo. Vedremo della prossima puntata, faremo una disamina molto attenta. Ma cos'è quel barrano che c'hanno davanti agli occhi? Ah, e se ne è parlato. L'Halo, si chiama Halo, H-Halo. C'è chi lo prende in giro, dice le Formula 1 con l'infradito. È una soluzione che hanno messo. Sì, vero, sembra. È una soluzione che hanno messo lì, in teoria, per proteggere i piloti. Dopo che è successo l'incidente mortale di Jules Bianchi, il pilota che correva con la Marussia, che si è andato a schiantare contro una gru. E pare che in realtà questo T-Wing non gli avrebbe davvero, questa Halo non gli avrebbe davvero salvato la vita. Però sì, ma me lo ricordo. Te lo ricordi? Mi sa che l'avevi detta sta cosa. Sì, sì, se ne parlò. Sì, comunque, allora, insomma, hanno messo. È una sorta di cupolina, però non di vetro. È fatta proprio da una specie di cosa di infradito e dovrebbe parare la testa del pilota se gli arriva tipo una macchina o una gru addosso, una cosa del genere. In realtà ci sono i piloti puristi, che sono quasi tutti, e dicono: ma che cazzo è, non serve a nulla, nemmeno ci salva la vita, ci rompe solo il cazzo. E c'è chi dice: no, vabbè, ci può stare. A me non è che mi piace tanto, però tutti hanno quel coso. Da quest'anno vedremo anche la Halo. Cioè, è un palo davanti agli occhi, però. Sì, no. Però hanno fatto anche delle immagini in cui fanno vedere l'onboard camera dei piloti. Cioè, in realtà non è che ti dà noia, è un palo centrale. Ma poi, infatti, nel Medioevo gli elmi... Fra l'altro, C'è sempre stato. Infatti l'avevano tolto. Fra l'altro. Comunque noi, insomma, non abbiamo saputo dire molto della nuova Ferrari e tuttavia una cosa la possiamo fare. Possiamo farvi sentire in grandissima esclusiva, in grandissima anteprima per Radio Wombat. Sparato a 2000, ovviamente. Sparato a 2000. Il motore che si accende per la prima volta della nuova Ferrari F2018. Eccola qua, eccola qua. No. L'iniezione questa, credo. È tipo la, questa è tipo la chiave grippata. Aspetta, grippata. Aspetta, no, mo stanno a vedere. Senti ora. Un parte. Lo senti? Ma sembra il rumore della mia panda. Se, no, ascolta, se non c'hai un brivido blu adesso, sei un uomo senza sensibilità, te lo dico. Era questa. Notare la differenza. Questo è il vecchio suono invece dei motori. Questi erano i vecchi motori, quelli aspirati. Questo è serio, questa no, è la Formula 1. Sei per la Formula 1 della buffoneggiata. Perché cosa stanno per fare adesso? Questi nuovi padroni Liberty Media maledetti stanno pensando di fare un silenziatore apposta. Bello. Un pezzo che non serve a niente. Come che serve soltanto a fare il vecchio rumore della Formula 1, dei vecchi motori aspirati, questo qui. Bello, perché mi piacevano piace. Tanto alla gente tipo Grippo. Sì. No, non mi piace. Sì, invece i nuovi motori sono molto più efficienti, questo sono più cupo, più rotondo, un po' più grezzotto. E però non piace agli ascoltatori. Un po' catarroso. È un po' catarroso, esatto. E stanno rimettendo di prima. Io ti confermo, diciamo. E a quanto pare invece sta incontrando la sensibilità dei vari tifosi la nuova cosa del Liberty. È sincero, è quello vero, dai. Ma non è quello vero, ci dobbiamo mettere un pezzo, i nuovi motori, cambia la tecnologia, cambia il suono. No, quello vero è quello nuovo. Quello nuovo, spiegagli. Quello catarroso. Comunque, a proposito di presentazioni, cosa è successo? Che la Red Bull ha fatto una pesata. Cioè, ha sempre fatto una cosa, è già da 3 o 4 anni che fa sto pezzo. Non fa vedere quando presenta la macchina la macchina con la vera livrea, cioè con i colori originali, fa un camouflage che sarebbe tipo una serie di ghirigori, disegnini tribali che servono a che te non capisci bene come stanno messi i pezzi. Cioè, perché fanno tutti neri, gli fanno i pezzi blu, non capisci. Così bene. Gli altri non possono. Sì, non la studiano prima, capito? Non solo. Cosa è successo? Che stamani mattina abbiamo visto la Red Bull in pista. E di cosa ci siamo accorti? Che l'hanno hanno fatto il bluff, il grande bluff. Con Photoshop gli hanno levato dei pezzi. cioè quando hanno fatto la presentazione della macchina, intanto hanno fatto solo le foto frontali per non fargli vedere dietro, e poi gli hanno photoshoppato dei fianchi dove c'erano questi deviatori di flusso che aveva ripreso dalla Ferrari, e li hanno levati per far pensare che non ce l'avesse. E invece sì, ce ne siamo accorti. Furbini. A onor del vero, non è che ce ne siamo accorti oggi, ce ne siamo accorti una settimana fa, anzi 4 giorni fa, quando Ricciardo, il pilota australiano che a noi sta piuttosto simpatico, sì, sì, siccome ride sempre, lo chiameremo da oggi il sofficino australiano. Ok, il sofficino australiano. Sì, che ha deciso che niente, che l'hanno mandato a fare il filming day, perché succede che prima di fare questi primi test mandano la macchina fuori con tutte le telecamere, fanno il filming day per pompare la nuova macchina. Ricciardo è andato fuori, ha accappottato la macchina, ha fatto un disastro. È bellissimo. Sì, non è male, è infatti. Calcoliamo che Ricciardo è stato il pilota che ha fatto due incidenti in tutta la sua carriera. Incredibile che nel filming day, quando è giusto per far due filmini, si stonfonate, spacca tutto. Sì, da un certo punto di vista ci può anche stare simpatico, perché ci possiamo vedere anche il carattere del pilota che vuole andare a portare la macchina all'estremo fin da subito. Insomma, vediamola un la po' come. Muro, oppure come è non è la proprio battuta. Sì, comunque sì. In sostanza sì. Bene, bene, ma cambiamo argomento. Diamo un po' di base e cambiamo argomento. Sì, sì, sì. Nel frattempo, cioè da quando è finito lo scorso mondiale a questo nuovo che sta per incombere, come ci siamo intrattenuti noi altri? Parlando male di Hamilton. Sostanzialmente sì, sostanzialmente sì. E infatti abbiamo news da Hamilton. E infatti abbiamo seguito, vi ricordate, le grandi vicende legate ai social media di Hamilton. Sì, sì, sì. Che prima ha fatto un video quando a Natale al suo nipote che ci aveva il tutù, gli ha detto ti devi usare la spada, no, il tutù, grande panico. Sei un uomo. Sì, sì, grande panico sui social network. Tutti gli hanno detto un omofobo di merda. Sì, sì, sì. E Hamilton di ripicca ha detto allora vado via da Facebook, da Instagram. È andato via da Instagram e tutti hanno detto no, Hamilton torna, si perde. Però poi boom, è tornato. Sì, tutto pompato, e ha smesso di fare però i video a se stesso. A questo punto li ha affidati a un'agenzia pubblicitaria. No, come si dice, insomma, e ha fatto bene a occhio. A un social media social manager. Media manager. O forse no, perché ne stai riparlando. Non lo sappiamo, quindi. Non lo sappiamo. Ma cosa ci è venuta la curiosità di fare dopo l'annuncio della nuova riapertura del profilo Instagram di Hamilton? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Allora, vediamolo insieme, amici. Che cosa abbiamo? Prima foto l'abbiamo annunciata. Hamilton in cima alla montagna con la giacca da neve che sta per lanciarsi sotto lo snowboard. Hamilton con lo smoking che si tira sulla cravatta e intanto c'ha i guanti da pilota. Hamilton seduto tutto sudato al lato del ring dopo che ha picchiato. Hamilton che salta in mezzo alla neve. Hamilton che dà il microfono a un ragazzino handicappato. Hamilton che salta alla motoslitta. Hamilton che si guarda con lo sguardo macio. Blue Steel. Non capisco che vuol dire. Hamilton che sale veloce delle rampe di scale. Hamilton tutto tatuato, nudo, tamarrissimo, e piglia a cazzotti l'aria. Hamilton un mega cappotto rosso giapponese. Lo vedi come sta? Perché noi Hamilton con un cappotto rosso giapponese scritto sopra Loved, fra l'altro parentesi post caricato il giorno di San Valentino. Poi cosa ci abbiamo? Hamilton che si frega le mani, Hamilton che fa parkour, Hamilton sulla moto, eccetera, eccetera. Ci siamo capiti, no? Se vogliamo anche andare a vedere che cosa dice Hamilton, quando carica questi post troviamo, per esempio, ricordate quando hanno detto che non potevi raggiungere l'obiettivo? Beh, avevano torto. Questi sono i tipici post di Hamilton. Giusto per il gusto di farlo, leggiamone un altro paio. Lo sai che cosa dicono? Non ci sono amici in un giorno di polvere mentre va con la motoslitta a sgommare. Oppure Hamilton che sale e s'allena, cioè dice passo dopo passo, spingendosi verso un anno che sia da ricordare. Andiamo, ho messo la benzina flash. Lewis Hamilton. Questa è l'agenzia, il social media manager è questo. Sì, sì, una tamarrata. Ha scelto tamarra come lui. Incredibile. Parallelamente, vi ricordate, abbiamo anche fatto sentire l'apertura del canale Instagram di Kimi Raikkonen, che è sempre stato alieno da tutti i social network. Sì, c'è la moglie. Bravo, la moglie. Sì. Allora, io c'ho una teoria. Siamo andati a vedere Hamilton, che si fa? Non si va a vedere Raikkonen? Per forza. Secondo me glielo cura la moglie a lui. Ho questa teoria. Perché la moglie è in una foto su due. E non c'è nessun set. Infatti, andiamolo a controllare che cosa c'è. Hamilton con la moglie e i figli che si fanno le coccole. No, bellino. Però per equilibrare, subito dopo Hamilton che salta con la moto da Raikkonen che salta con la moto da cross. Poi abbiamo Raikkonen in un interno familiare che si riposa sul divano. Poi abbiamo Raikkonen in mezzo al lago col cappotto. Poi abbiamo Raikkonen con il figlio. E a seguire abbiamo la nuova moto di Raikkonen. Raikkonen che si allena, Raikkonen con la moglie in macchina che si baciano, il figlio di Raikkonen, Raikkonen che gioca a ping pong col figlio, il terzo compleanno del figlio, Raikkonen in aereo che sta andando, Raikkonen che fa le flessioni con un solo braccio. Insomma, c'è una foto che si pompa, una foto familiare, una cosa del genere. Perché non comunque essere sempre duri di senza mai perdere la tenerezza. Forse per quello, forse per quello. Probabilmente era un ghevarista convinto. È un ghevarista convinto. Poi mi formula Raikkonen, oppure lo è sua moglie. Allora, io amici ce ne ho da dire, mettetevi comodi, vediamo un po' perché arrivano le ultime due notizie più su cose, dai. Dite il rombo. Satz figute Kong. Siglingen. Abolizione ombre. Ah no, no, le notizie su cose arrivano dopo. Un po' di cose spot, spot, cosa è successo nel frattempo. Dunque, le ombrelline. Vi ricordate, si è parlato, si tolgono, si tolgono. Grande, grandissimo dibattito. Le hanno tolte. Le hanno tolte, le ombrelline, non ci saranno più nulla. Finite le ombrelline. Non ci saranno i fumazzoni? Non ce ne sarà nessuno. Ma non avevano molto senso. L'ombrello se lo tenga da solo. No, non ci sarà nessun ombrello. Adesso metteranno dei gazebini preparati che in realtà non costa niente montare. Allora, grandi reazioni a tutta questa soluzione noiosa. Mi sa di sì. Grandi reazioni, grandi reazioni. Jackie Stewart, lo sapete chi è Jackie Stewart? Era un campione. Sì, tre volte campione del mondo, grande. Tra l'altro è il campione del mondo più longevo, cioè il più vecchio campione del mondo in vita. Nel 39 è nato, se non sbaglio. E ha vinto tre volte il mondiale, pilota britannico, è quello che fa la pubblicità dell'Heineken, non so se l'avete visto ultimamente, c'è cioè, tipo un cameriere, gli offre l'Heineken, è main sponsor della Formula 1. Tra l'altro, l'incredibile cosa per cui hanno proibito le sigarette, hanno permesso all'alcol di sponsorizzare la Formula 1, parliamone. Comunque, bellissimo. Incredibile. Cioè, ha fatto lo sponsor all'Heineken, c'è la pubblicità dove Jackie Stewart esce, si prende la birra, sta per berla e poi dice, no, io I'm still driving, e va via sgommando sulla sua macchinona. Il vecchio Jackie, che dice è inaccettabile. Sono tutti un po' incazzati questi vecchi personaggi della Formula 1. Insieme a lui è incazzato Willy Weber, che è il manager della Formula di l'ex manager di Schumacher, che approfitta della volontà di recriminare contro le ombrelline per dire che non sa niente della salute di Schumacher e che spera che presto la moglie darà notizie. E che comunque dice questa sta diventando la Formula Topolino. Niente, sono tutti un po' arrabbiati con questo fatto che cambiano le ombre, che non ci saranno più le ombrelline. Meglio preferivano Eccleston. Sì, sì, che sta tornando alla ribalta, il vecchio alla mandrillo. Alla fine, bastardo che era. Ma sta tornando alla ribalta. Sì, sì. È architettato bene. Sì, sì, perché continua a farsi vedere. Cioè, non è che se ne sta a casa, va a tutti i gran premi e sta a fare l'intervista in cui parla male dell'attuale gestione della Formula 1. E tutti lo vanno a cercare perché comunque fa un po' lo show. E quindi raccoglie consensi. Sì, ma per boh, ma non lo so. Cioè, sanno un po' tutti, fanno un po' tutti ridere. Fra chi fa ridere la Williams. Perché fa ridere la Williams? Vi ricordate tutte le vicende, no? Kubica, Sirotkin, la scuderia inglese, sì. Il pilota di rally quarantenne che non è tornato a favore del giovane russo con la valigia. Ecco, ha ingaggiato nella scorsa settimana come terzo, come pilota di riserva, aspetta che non mi ricordo il nome, un giovane scozzese, si chiama Olivier Rowland, che in realtà così tanto giovane non è, nel senso c'ha 25 anni. A noi non è che la cosa ci preoccupa, però calcoliamo che la Williams ha come riserve a questo punto un pilota 25enne, lui, e un altro pilota 32enne, Paul Di Resta. Mentre ha come piloti titolari un 19enne e un 22enne. Il 19enne è Sirotkin, quello nuovo che è arrivato, e il 22enne è quello che si era detto il figliolo del grande magnate canadese con le macchinone. Grande smacco per le vecchie generazioni. Cioè, se calcoli, e questi sanno il programma Young Driver della William. E c'hanno la 25ina passati, quegli altri nemmeno hanno fatto i 20. È la Formula Topolino. È un po' la Formula Topolino. Sta dietro agli soldi e basta la vecchia William. Sì, sta dietro ai soldi e basta. Comunque, niente. Queste erano manovre spottine. Ancora un po' di carica mentre prendo la super notizia e via, dai. Prova di cultura. Eccoci. Per chi corre il pilota Magnussen. Per la Marussia. Non esiste più. No, la Marussia proprio non esiste più. Ha fallito, ha venduto all'asta tutte. Non quella, da men che meno. Quindi La Toyota. Non c'è più, ragazzi. Allora, diciamo almeno Forza scuderie India. Che esistono. Forza India. No, no, Forza India era buona rosa, come risposta, ma è sempre rosa, è sempre rosa. Non è la Forza India, che era una squadra che ci sta molto simpatica. Proviamo di nuovo. Lotus. Lotus non c'è più, ragazzi. Alfa Romeo. Porca puttana. Alfa Romeo. Va bene, ve lo dico io. No. Corre per la Haas. La Haas è la nuova scuderia americana. È una nuova scuderia americana da Gene Haas, questo magnate americano. Niente, cioè due piloti non ci stanno tanto simpatici. Sono il francese Grosjean, che non fa altro che lamentarsi ogni 3x2, e questo Magnussen, che tutti è un pilota danese. Tutti gli altri piloti sono parecchio incazzati con lui, perché piglia sportellate tutti. Proprio è un cattivo in pista. È un figliolo d'arte. È un figliolo d'arte, ha fatto la sua stagione di debutto in Formula 1 alla McLaren, dove la miglior posizione che ha ottenuto è stato un terzo posto, poi è stato retrocesso e è andato a farsi qualche anno con auto minori. Adesso sta correndo il prossimo anno insieme sempre a Grosjean con la Haas. Ecco, Magnussen, che cosa non t'ha combinato? Fra l'altro anche lui una decina di giorni fa dici. Ha spostato la sua residenza. Indovinate dove l'ha spostata? Alle Cayman. No. Vicino all'isola a Verde. Dubai. Il vecchio Magnussen è andato a Dubai. A faricche. Non lo sai, a faricche. È lampante. E gli sono andati a dire: Magnussen, ma perché sei andato a Dubai a trasferire te la residenza fiscale e quella? Magnussen ha spiegato chiarissimamente. Attenzione, abbassa un attimo, che qua è cheat. Sì. Ho un appartamento in un'area chiamata Dubai Marina, che si trova nei pressi dell'aeroporto internazionale. Dubai sicuramente è molto più centrale di Copenaghen, specie se guardiamo al calendario di Formula 1, e dunque potrò risparmiare alcuni giorni di viaggio vivendo direttamente lì. Ecco, Magnussen dice che Dubai è più centrale rispetto alla Danimarca. Torna meglio, risparmio. Vuoi lavorare 5 minuti? Sa, gli hanno detto, Magnussen, ma guarda, ma sei sicuro, gli hanno fatto? E Magnussen dice: vivendo a Dubai posso anche sfruttare il clima per i miei allenamenti. Il meteo è molto simile alle temperature che raggiungiamo nella gran parte delle gare, quindi conto che questa cosa possa anche aiutarmi a migliorare come pilota. È convinto. Sì, possiamo anche fargli un applauso oppure mandarlo sonoramente a fare in culo. Se l'è studiata bene comunque. Ma pensa questo, ma ti rendi conto? Sì, è più centrale, poi fa caldo, è più simile il clima. Mi serve per allenarmi come pilota. Andare dove non esiste tassazione. Ma va, Magnussen. Eccoci dunque al clou, nonché alla fine di questa interminabile rubrica. Come avete capito, quando abbiamo parlato del caso Budkowski, si è inaugurata una sottorubrica all'interno di questa rubrica, che ho deciso oggi di ribattezzare gente che si chiama simile a. Quando abbiamo parlato di Budkowski, parlavamo di un soggetto che si chiamava simile a Bukowski, il poeta. Il nostro è Budkowski, che era un dirigente della FIA, che poi si è licenziato per farsi assumere dalla Renault e portare con sé un sacco di segreti, pagato suon di milioni, creando un grosso scandalo nel circus. Adesso di chi parliamo? Parliamo di Richard Branson. Aspetta, prima di parlare del soggetto, a chi si chiama simile Richard Branson? Comprami il gelato, mamma. Chi è? Puoi scordartelo. Che cazzo è questo? Non finisce qui. Chi è? No, Bronson, no. Ah, poteva essere. No, il mio è ancora più simile. Richard Benson. Benson and Edges? No, allora, questo qua che sto per dire io si chiama Richard Branson. Quello che invece si chiama simile a è Richard Benson, che è un cantante metal grandissimo italiano. È quello dei Nani. Non so se... Abbiamo portato una canzone, ce l'abbiamo dalla regia. Ma facciamo sentire. Vai regia, gentilmente. Questa? Senti qua. La facciamo un po' andare, eh. Ora un po' pausa. La grinta c'è. Sangue di un mare morto. Io col mio cuore in mano, chiuso in un globulo agro dalla forma di un cranio. Beh, Richard Benson, lo puoi pure lasciare un po' sotto. Sì. Dunque, Richard Benson. Tranquillo, come sottofondo. È molto soft. È bello, fra l'altro. Si chiama simile a Richard Benson. Richard Branson. Richard Branson era il patron della Virgin Racing Team, che è una squadra che a un certo punto nella Formula 1, imbroccando un attimo un anno un telaio in un sistema di sospensioni speciali, ha vinto. È stato un grosso colpo di scena. La sua prima vittoria in Formula 1 fu in un anno, che era, se non sbaglio, fra l'altro il suo debutto come patron di una squadra. Adesso la sua scuderia sta correndo tuttora in Formula E, che è la serie dove corrono le macchine alimentate a motore elettrico. Fra l'altro una serie super divertente, dove le macchine vanno piano ma c'è un sacco di scontri di... E attualmente terza alla sua scuderia, sta continuando il suo lavoro. Ecco, nel frattempo è uscita una autobiografia di questo soggetto, di questo imprenditore, che si chiama Life to the Limit, La vita al limite, in cui lui racconta di quando il primo giorno che ha vinto una gara di Formula 1, che fu appunto quando c'aveva la Virgin, e vinse Button, il pilota che si è ritirato un anno e mezzo fa, a seguito della vittoria ci fu una grande festa, grandissima festa, dove lui si prese una sbornia colossale, e racconta questa vicenda in cui lui stava pisciando e qualcuno gli arriva dietro e gli dice: Richard, mi fai un autografo? Lui si gira e firma l'autografo senza smettere di pisciare. E quindi ha inondato tutte le scarpe e il sottopantalone della persona che gli aveva domandato l'autografo. Poi se n'è andato con l'autografo e le scarpe mezze. Al che lui ha detto: io dopo quella vicenda, quando giorni dopo mi fu raccontato, ho deciso che era il caso di smettere di bere. Da quel momento per 3 mesi ho smesso di bere e adesso poi ho ripreso le mie vecchie cattive abitudini. Niente, questa è la vicenda di Richard Branson, di cui ci preme sottolineare l'assurdità. Intanto che uno gli va a chiedere l'autografo proprio mentre piscia, cioè, ma voglio dire, ti meriti anche una schizzata. Tu e io mi immagino una roba tipo il bagno dell'Emerson, perché succeda questa vicenda. Perché secondo me a casa di Richard Branson, cioè, ci sono tipo dei super bagni, super chiusi, super difficili da raggiungere. Non è che gli va uno dietro: oh, Richard, mi fa l'autografo. Ma magari era a pisciare a una siepe in giardino, mica. Ah, forse sì, è giusto. Però anche il fatto che questo ci resta. Cioè, mo può essere, che cazzo ne so, chi vuole quello a cui gli ho chiesto l'autografo, ma se si gira e mi piscia sulle scarpe è che sto lì. E pare che invece sia andata proprio in questa maniera. E lui tutto soddisfatto, se ne andava le scarpe pisciate e l'autografo di Richard Branson. Fan. Questa era la fantastica sottorubrica gente che si chiama simile a A, inaugurata all'interno dell'altrettanto splendida rubrica A Maldonado non si guarda in bocca. Io penso di essere riuscito ad abbassarlo abbastanza nettamente con questa puntata. Sì, hai smorzato. Dai, abbastanza. Dai, ce l'ho fatto. Rimetti un attimo, bravo, sì, per il più. Allora, oggi, domani, domani all'altro, il giorno dopo, si corre. Tutti sintonizzati, roia diretta, a quello che vi pare. Seguire, mi raccomando, poi ne riparliamo fra una settimana. Stanno a vedersi le macchine. Noi seguiamo, forza Kimi Raikkonen. Forza, state aggiornati, non vi interroghiamo. Mi raccomando, e non rispondete come i miei coinquilini di radio. Spoiler, no? Ci si prova, dai. Volte. Potremmo, per esempio, spoiler, chiedere per chi corre Ocon. Ocon? Basta tirartela, però. Ma è troppo difficile. Sono 20, comunque, come una maestra deve imparare 20 alunni. 20. Ah, boh. Però, ma la prossima settimana ci portiamo il prospettino con tutti quanti i piloti. Così, io sono sicuro che Tuco lo sapeva, per chi corre Ocon. Tuco l'avrebbe sono saputo. Sicuro, sì, sì. Tuco si sente la mancanza per diverse cose di questa puntata, però, nel senso, andiamo avanti. Sì, forse chiudiamo. Siamo un po' a fine del tempo. E sentiamo un attimino, andiamo a parlare di animali adesso invece, per un breve spot. È molto giusto. Per abbassare ulteriormente il livello. Anche le foche bevono Radio Wombat. E voilà, siamo tornati velocissimi, come una Formula 1 di quelle forti. Caro Lapo. Anzi, Nuovo rumore. Nuovo rumore. Comunque, allora è passato Maldonado. Purtroppo il nostro sì, tempo ce l'abbiamo è finito. Fatta, ce l'abbiamo fatta. Il nostro tempo è finito. Che ci resta? Ci resta poco, ci resta da chiudere. Da ricordiamo l'evento di sabato e domenica. Ma rimandiamo alla rassegna eventi che tra poco. Che tra poco andrà in onda, assolutamente sì. E, c'è il tempo per un'altra canzoncina. Un altro pezzaccio? Non lo so. Abbiamo You Can't Roll a Skate in a Buffalo Head. Ah, anche dedicato agli ultimi fatti recenti che a Firenze. Esplosioni in luoghi pericolosi. Questa canzone dice proprio non puoi fare skate, non puoi andare sui rollerblade se in, in un recinto di tori. Una metafora, vabbè. Lascio parlare Roger Miller. Parola del poeta. Via. Vai Roger. You can't roller skate in a buffalo herd. Can't roller skate in a buffalo herd. You can't roller skate in a buffalo herd. But you can be happy if you've mind to. You can't take a shower in a parakeet cage. Can't take a shower in a parakeet cage. Can't take a shower in a parakeet cage. But you can be happy if you've mind to. All you gotta do is put your mind to it. Knuckle down, buckle down. Do it, do it, do it. Well, you can't go swimming in a baseball pool. Can't go swimming in a baseball pool. You can't go swimming in a baseball pool. But you can be happy if you've mind to. Change film with the kid on your back. But you can be happy if you've mind to. You can't drive around with a tiger in your car. You can't drive around with a tiger in your car. You can't drive around with a tiger in your car. But you can be happy if you've mind to. All you gotta do is put your mind to it. Knuckle down, buckle down. Do it, do it, do it. Well, you can't roller skate in the buffalo herd. You can't roller skate in the buffalo herd. You can't roller skate in the buffalo herd. Be happy if you've mind to. You can't go fishing in a watermelon patch. You can't go fishing in a watermelon patch. You can't go fishing in a watermelon patch. But you can be happy if you've mind to. You can't roller skate in a buffalo herd. You can't roller skate in a buffalo herd. Capitano! Capitano! Oh, che c'è? Onde altissime dritte di prua! Non hai visto male! Oh no! Ha ragione, capitano! Sono onde medie! We want the airways back. Due giorni su Radio Frequenze Liberate. Sabato 3 marzo al Next Emerson dalle 22.30 con i CCC, CNC, NCN. Domenica 4 marzo Polveriera Spazio Comune dalle 15, workshop e dibattiti sulle radio pirata e le frequenze libere. Il programma completo su www.wombat.noblogs.org. Allora, eccoci. Arieccoci. Arieccoci, siamo tornati. Abbiamo ancora qualcosa da dirvi. Ma poca roba. Poca roba. Che si dice? Siamo ai saluti. Sì, i saluti e una sorpresa, appunto. La sorpresa che abbiamo ricevuto, che abbiamo avuto oggi aprendo la cassetta della posta, perché abbiamo trovato. Finalmente la salvavamo. Eravamo lì proprio. Ci mancava. Lo cercavamo un candidato, perché ci saranno anche le prossime elezioni. Dice. Abbiamo saputo oggi che ci sono le prossime elezioni. Se non siamo troppo impegnati con We Want the Airways Back. Potremmo andare a votare. Comunque, quello che ci ha scritto è niente poco di meno che Matteo Renzi. Matteo Renzi. Lui, proprio lui. C'è scritto personalmente. Ah, è gentile. No, ma... È gentile, caro. No. Si interessa a noi. Comunque, a noi di Firenze è veramente bellissima questa lettera che ci ha mandato. Sì, una lettera per tutti i fiorentini. Sì. Sono nato a Careggi, cresciuto a Rignano. Ho studiato al Dante. Hai proprio nato. Mi sono laureato quando ancora la mia facoltà era in centro, in via Laura. Dove sei laureato? A magistero? No, in via Laura. Forse c'è Laura, era ancora in via Laura. Scienze politiche, interessante. Fin da studente ho lavorato in città con Agnese e i miei figli. Abbiamo vissuto a Pontassieve. Capito. Ho fatto l'amministratore pubblico. Non fa ridere questa realtà, però. Lo stringe la mano a migliaia di persone che rappresentano la forza di questo territorio. Insomma, tutto per la fiorentinità. Il mio attaccamento alle radici della fiorentinità, su cui tanti hanno polemizzato a Roma in questi Matteo anni. Matteo Renzio. Nasce da questa storia, di una storia. Matteo Renzio. No, ma a me mi piega soprattutto quando dice: a chi mi chiede che farai da grande, quali obiettivi hai, rispondo innanzitutto semplicemente: voglio rappresentare Firenze, Scandicci, Signa, Lastra Signa, l'Impruneta. Sappiate che per me sarebbe un onore. Sesto no. Sesto no, non l'ha detto. Sesto dire, non ti piace. Sesto no. Sesto merda. Vaffanculo. Sesto non gli interessa, sono degli stronzi. Ma poi questo lenzuolo rosso che mi hai dato era allegato? È il volantone. Sì, con allegato i 100 punti, i 100 punti fatti e i 100 punti da fare. Cioè, perché comunque secondo me ci sono cose di cui non ci sarebbe da vantarsi. Sto leggendo. Ma poi per aveva esempio fatto i 100 punti, l'aveva fatto il intro... live. Insistiamo i 100 punti, forse qualcuno non si è accorto. Comunque qua dice 100 cose fatte, ci mette roba tipo introdotta l'alternanza scuola-lavoro. Oh, grazie. Vantiamoci di questa ragione. Ci mancava la loro. Dovresti metterlo vicino in fondo. L'ufficio dello sfruttamento. Oppure dice anche roba che sono delle bugie. Tipo, lotta contro il precariato nella scuola. Non è vero, non lo dire. Vabbè, ciao. Basta, no, Matteo Renzio, non si può sentire. Non si possono proprio sentire. Dice bugie. Poi questa è strana. Dice: inserito il principio, un euro in cultura, un euro in sicurezza. Su questa meriterebbe in sicurezza, in sottrattino sbirri e filmini. Forse hanno messo uno spazio per sbaglio, in effetti, sì. Poi c'è inserito il canone Rai all'interno della bolletta. Basta. Sono tutte cose. Non facciamo campagna elettorale per Matteo Renzio. O per poi magari qualcuno sente queste cose. No, ma so consigli. Cioè, sì, so, sì, è vero, c'ha scritto la wish list. È la cosa più facile da fare per parlare di campagna elettorale. E io spende soldi per mandarci uno per uno a casa. Ok. Sì. A sesto no, per fortuna. Comunque, quegli altri, no, secondo me, a voi non vanno scritto, Come? Quegli altri non vanno. No, è vero, non c'hanno. Nessuno ci vuole bene, tranne Matteo Renzio. Riconosciamolo. Sì, ma Matteo Renzio ce l'ha con le lettere, non è la prima volta che le manda. Spesso le mandava, anche quando era sindaco. Comunque, lasciamo perdere Matteo Renzio, ragazzi. Lasciate perdere. Torniamo alle nostre cose. E purtroppo dobbiamo saluti. Cioè i saluti, sì, però prima dei saluti vi voglio dire di non perdervi la prossima puntata, dove avremo come ospiti niente po' di meno che dei rappresentanti di non una di meno. No, no, scherziamo. Non una di meno. In vista del corteo, il corteo d'8 marzo, la prossima puntata. Bene, detto questo, ciao a tutti, a fra poco con la rassegna eventi. Super sigla. E buona super sigla. Wombat. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. E via.